1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7 e 19 minuti, cari ascoltatori, eccoci qui a leggere i giornali. Forza, forza, forza! Dai che la 145esima settimana decisiva per abolire le province è cominciata. E voi magari siete ancora alle vostre colazioni, state infilando i pantaloni di fretta e la camicia per uscire da casa dell'amante, scappare, non lo so, andare a lavorare, portare i figli, a fare quello che non mi interessa state facendo. E intanto le settimane qua iniziano e si accumulano senza voi. Dai, andiamo a leggere i giornali, forza! È lunedì 8 febbraio e allora i titoli. Intanto il Sole 24 Ore apre con conti, fondi, bond, azioni, ecco l'Italia del risparmio. Trentino, Liguria e Marche, preferenza alle borse, il sud più conservativo. È una interessante elaborazione realizzata da Ipsos in esclusiva per il Sole 24 Ore, una mappa del risparmio che dopo vedremo con Mauro Meazza. Molti quotidiani aprono sulla vittoria di Sala alle primarie del centro-sinistra a Milano. Sala supera il test delle primarie, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Il Giorno, Sala vince ma non sfonda. Il Messaggero, Sala vince il test di Milano. Mentre Libero mette polemicamente per il voto dei cinesi, primarie PD tragicomiche, il sindaco di Milano lo scelgono i cinesi. Repubblica invece, non accettiamo verità di comodo sulla fine di Giulio. È la vicenda di Giulio Regeni che tra pochissimo approfondirò, è il ministro agli esteri Gentiloni che parla così. La Stampa invece, 5 Stelle, il diktat di Casaleggio. È interessante questa apertura perché La Stampa ha trovato un documento, un contratto che i candidati del Movimento 5 Stelle a Roma devono firmare e che prevede una penale di 150.000 euro per il candidato del Movimento che trasgredirà a questo decalogo, che poi vedremo. Anche l'Unità si concentra sul Movimento 5 Stelle, non è una novità, però il titolo riguarda il cambio di fronte, visto che il Movimento ha deciso di lasciare libera coscienza per il voto sulle unioni civili, cambiando la linea di partito. Scoppiati, questo è il titolo dell'Unità, Movimento nel caos. Invece il Fatto Quotidiano, Renzi, viva Cuffaro e Verdini. Si riporta questa frase del Premier: chi fa lo schifiltoso coi voti perde. Il Giornale invece ha una polemica a lei. Sanremo non è ancora iniziato e già parte la prima polemica per il Giornale. Sanremo fa lo spot alle coppie gay. La TV di Stato entra a gamba tesa. Domani all'Ariston ci sarà ospite Elton John con il marito. Una maxi pubblicità alle adozioni omosex. Ma partiamo appunto dalla vicenda tragica che ha coinvolto questo ricercatore italiano Giulio Regeni, che ormai abbiamo imparato, ahi noi, a conoscere per la sua drammatica fine in Egitto. La salma è stata portata in Italia, è stata fatta l'autopsia e dall'autopsia a me dispiace, veramente spezza il cuore leggere quello che i giornali raccontano della fine terribile di Giulio Regeni, torturato perché pensavano che fosse una spia. Questo è il titolo di pagina 10 di Repubblica. Carlo Bonini e Giuliano Foschini raccontano delle lesioni trovate sul corpo di Giulio, compresa quella letale al midollo spinale con frattura di una vertebra cervicale. Lesioni che provano che l'omicidio ha una mano e un movente politici. Seconda questione, nella loro raggelante crudeltà, le sevizie inflitte al ragazzo hanno una inequivocabile format dell'orrore. Proprio degli interrogatori che le polizie segrete riservano a coloro che vengono ritenuti spie, come nel caso di Giulio, colpevole agli occhi dello squadrone della morte che lo aveva sequestrato il 25 gennaio di giocare troppe parti in commedia. Ricercatore universitario, giornalista con pseudonimo per un quotidiano comunista, Il Manifesto, militante politico per le cause dell'opposizione al regime. A Giulio Regeni, racconta Repubblica, sono state strappate le unghie di dita e piedi, sono state fratturate sistematicamente le falangi, lasciando tuttavia gli arti inferiori e superiori. È stato mutilato un orecchio. Chi lo ha sistematicamente seviziato era convinto di poter ottenere informazioni che il povero Giulio non poteva consegnare semplicemente perché non le aveva, perché non era la spia che i suoi aguzzini ritenevano fosse. I boia hanno infierito su un inerme. Insomma, questi dettagli, e poi c'è anche un'intervista Repubblica fa a Mohammed Soltan. Chi è? È intervistato da Francesca Cafferri, sempre a pagina 10, e dice: io sono stato in quelle celle, 25 anni, ex detenuto delle carceri egiziane, cittadino egiziano e americano al tempo stesso. Racconta in lacrime cosa succede quando si entra in quelle celle. Mi hanno picchiato un braccio rotto, mi hanno rotto con le viti i nervi, provocandomi un dolore atroce. E poi il terrore, gli interrogatori nel mezzo della notte, quando vengono a prenderti e non sai se tornerai. Ci sono trucchi per non farti dormire, mai. Ci sono i compagni prelevati che tornano col corpo tagliuzzato, quelli che non tornano più, gente che urla alle celle accanto, gente a cui hanno tagliato due dita, spento i mozziconi addosso. Insomma, racconta Mohammed Soltan il terrore di queste celle egiziane. Anche il Corriere, con Viviana Mazza, va a fare un reportage dal luogo. Ci sono le foto, il luogo in cui è stato ritrovato, vicino a un muretto in una strada di veloce scorrimento per le macchine, un corpo scaricato vicino a una prigione dei servizi segreti. Lì vicino, dove hanno trovato il corpo, c'è una prigione dei servizi segreti. La Stampa invece racconta del mistero dei venditori ambulanti dietro la morte di Giulio al Cairo, perché Francesco Grignetti racconta che Giulio Regeni, nella sua azione a contatto con i sindacalisti, era entrato in contatto con i sindacalisti dei venditori ambulanti, un mondo fatto di molte persone che per la caratteristica del loro mestiere si trasformano in informatori della polizia. E allora è ovvio che in una situazione in cui lui faceva domande, in cui lui magari voleva investigare il mondo del sindacalismo, era sicuramente seguito dalla polizia, in un mondo anche, scrive Grignetti, paranoico, quello in cui qualsiasi straniero che non sia semplice turista è subito percepito come spie, sobillatore, poi lui sapeva un inglese perfetto. Ecco che tutto questo cocktail forse ha determinato il fatto che qualcuno abbia messo davvero gli occhi su di lui e lo abbia ritenuto una spia. Dice il ministro degli esteri Gentiloni, intervistato da Repubblica: l'Italia non si accontenterà di una verità di comodo, l'Egitto aiuti i nostri agenti. E vabbè, questi sono appelli, ma chissà se rimarranno ascoltati oppure no. Lasciamo questa storia terribile, che comunque non è finita, proseguirà nei prossimi giorni sui giornali. Veniamo all'Italia. Sì, parleremo di Milano e delle primarie, certamente, ma mi ha colpito un'altra notizia che riguarda Milano e che c'è su Repubblica. La racconta Ilaria Carra ed è questa: Milano, il comune pensa a un bonus. Attenzione, udite bene, cittadini milanesi. Il comune guarda l'esempio francese e propone di dare 25 centesimi a chilometro se andate a lavorare in bici. E se arrivate vivi, vi verrà accreditato questo bonus. No, a parte la pessima battuta, insomma, ma battuta poi mica tanto. Andare in bicicletta a Milano, come nelle grandi città, cioè una città che è totalmente non friendly, diciamo così, nei confronti di chi prende la bicicletta, e lo fai a tuo rischio e pericolo. Comunque, il comune di Milano, per disincentivare l'uso dell'auto, provvede questo e pensa questo bonus a chi va al lavoro in bicicletta. C'è già il dibattitone, perché alcuni esperti di trasporti dicono: è un errore, si discriminano così gli operai che stanno in periferia. Ragazzi, come la fai? Non puoi fare niente, che c'è subito la protesta di chi dice io, e quindi con questo e io si rimane nella paralisi e non si fa niente. Vi segnalo questa storia del Corriere della Sera, Sergio Rizzo, pagina 19, lo stadio nato per Roma 1960, dove giocano solo topi e vandali. Muore lo stadio Flaminio, capolavoro architettonico abbandonato dalla politica e abbandonato dallo sport. È un viaggio di Sergio Rizzo con tanto di foto del degrado, della corrosione delle armature metalliche, infiltrazioni dappertutto, ambienti devastati, strutture vandalizzate, impianti fatiscenti, locali tecnici prossimi al collasso, aiuole ridotte a boscaglie incolte, il tutto circondato da una groviera d'asfalto. Così la fotografia scattata da una perizia giurata sancisce la morte di un gioiello dell'architettura. Basterebbero per evitare il collasso meno di 6 milioni di euro, ma nessuno li mette, tantomeno il comune. E eccolo qui, lo stadio Flaminio, davvero, beh, le foto non rendono giustizia, diciamo, allo scempio descritto invece nell'articolo, sono solo due o tre foto, la dicitura dell'articolo di Sergio Rizzo è cose dell'altro mondo, è la storia del Flaminio che va a pezzi tra l'incuria generale. Ma siamo all'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, non a me che sono davanti a un microfono, ma a voi che siete alla guida. Mani sul volante, mi raccomando, appoggiate tutto ciò che avete di bollente in questo momento nelle vostre colazioni. Baristi, fermatevi un attimo, baristi, fermatevi un attimo, perché c'è da snocciolare la cifra che Claudio Marincola mette a pagina 9 del Messaggero del tesoretto dei soldi ai gruppi parlamentari. Trattasi di 53 milioni di euro. Chissà perché oggi riesce questa storia del tesoretto dei finanziamenti, ma si racconta che i gruppi parlamentari si spartiscono ogni anno 53 milioni di euro. Una tortina mica male. Sono fondi che gli uffici di presidenza gestiscono secondo principi precisi. Un senatore assegnato a un gruppo vale 67.777 euro all'anno. Un deputato 50.793 euro. Fondi che i gruppi politici gestiscono per nome e per conto di Camera e Senato e spostano tutte le volte che transitano più o meno allegramente da un gruppo per aderire a un altro gruppo. Portano in dote un tesoretto personale da investire in consulenze, stipendi, comunicazioni, editoria, beni, servizi. Sarà per questo che il 332esimo cambio di casacca dall'inizio della legislatura, cioè l'ex grillina Gambaro che è andata nel gruppo Liberal Popolare Autonomie di Verdini, è stato accolto, si racconta, nei corridoi del transatlantico con un'ovazione. Mica perché porta, mica è arrivata la Gambaro, no, sono arrivati con la Gambaro 67.777 euro. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Allora, c'è da parlare di politica. Articoli interessanti oggi, a cominciare da Milano, le primarie. Allora, le primarie vince con il 42,28% Sala, Francesco Sala, che è dunque colui che vince, Giuseppe Sala, perché ho detto Francesco Sala, Beppe Sala, che vince dunque le primarie per il centrosinistra, è il candidato del centrosinistra a Milano a questo punto. C'è da dire che vince ma non sfonda, fa notare il Corriere della Sera, come tutti i giornali, il 42,28%, mentre si ferma Francesca Balzani al 33,9%, al terzo posto per Francesco Maiorino al 23%. Fanno notare ovviamente tutti i giornali che la somma dei voti per Balzani e Maiorino, che sono uno vice sindaco, un assessore attuali, quindi fanno parte della stessa giunta, supera Sala, cioè si fossero uniti. E infatti Francesca Balzani un po' di amarezza la dimostra quando dice, come prima dichiarazione, sono molto rammaricata, fino all'ultimo giorno ho continuato a ripetere a Maiorino che la porta era aperta, superare i protagonismi sarebbe stato importante, invece non c'è stata questa unità e dunque vince Sala, che dice subito a pagina 6 del Corriere della Sera, intervistato da Elisabetta Soglio: mi aspetto ora lealtà, ma qualcuno potrebbe cambiare strada. Risponde anche Sala in questa intervista, in cui dice appunto: mi aspetto che ora tutti siano leali a sostenermi. risponde alle polemiche sul voto dei cinesi. Ci sono state delle polemiche, tanto che Libero mette il titolo in prima pagina dicendo «Sala la spunta grazie ai cinesi e a Pisapia», e il giornale definisce primarie in salsa cinese, perché si è fatto notare che sono andati alle urne anche ai seggi dei cinesi. Ebbene, Sala dice: ma mi scusi, se negli Stati Uniti vanno a votare tutti si parla di grande democrazia, si concorda sul fatto che il futuro di questa città si basa sul suo essere internazionale, accogliente, sulla capacità di tenere insieme culture, razze e religioni del mondo. Mi stupisco molto del fatto che quando si realizza un momento di vera integrazione come ieri ci sia qualcuno che protesta. Questa la risposta di Sala alle polemiche. C'è da dire che su Repubblica viene intervistata anche Francesca Balzani, la sconfitta. E ora che farà? Cara Balzani, risponda lei a pagina 2. Per tutti vale l'aurea regola. Siamo tutti indispensabili, è necessario trovare una grande unione. Starà l'abilità di tutti tenere insieme gli elettori e le diverse anime della coalizione. Dobbiamo ambire tutti a battere il centrodestra e non ad avere posti. Certo, il mal di pancia in realtà qualcuno lo fa notare, i mal di pancia, nel senso che chissà se davvero ci sarà questa unità come era stata prospettata prima delle primarie, e cioè l'obiettivo è chiunque vinca poi dovrà essere sostenuto da tutti gli altri. Staremo a vedere. Però sulle questioni primarie ci sono due articoli interessanti che riguardano uno Roma e uno anche l'altro Roma, ma due partiti diversi, uno il centrodestra, uno il Movimento 5 Stelle, che vi voglio segnalare. Il primo è un'intervista a Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che a Roma dice di colpo, lo ha detto nel weekend, non sono più disponibile a correre, e lo ha detto a Berlusconi. E allora c'è un giallo, ci sono state polemiche, ci sono state discussioni su questo repentino cambio di marcia. Oggi Bertolaso viene intervistato da Ernesto Minicucci a pagina 10, spiega la verità. Ero pronto a impegnarmi per Roma, ma non posso. Ho sentito illazioni, polemiche, stronzate. Così esordisce l'intervista molto aggressiva Bertolaso. Ora facciamo chiarezza. Da 27 mesi sono felicemente nonno di una bambina che vive con mia figlia e mio genero a Londra. Ma giovedì scorso mia figlia mi ha informato che mia nipote doveva essere ricoverata urgentemente in ospedale. Ha una malattia rara che fortunatamente abbiamo preso in tempo. La situazione è sotto controllo e fuori pericolo, ma io sono partito di notte e ora sono qua e resterò per tutto febbraio a Londra. Sono distrutto da questa situazione, eppur essendo medico, abituato a guardare avanti. Ho scritto a Berlusconi, l'ho informato che non me la sentivo perché sono una persona seria, non voglio far perdere tempo a nessuno perché avrei bisogno di una mente sgombra da qualsiasi preoccupazione, ma in questo momento non ce l'ho. Dunque, spiega Bertolaso, con questa vicenda strettamente personale, il suo no a Roma. Ovviamente poi l'intervista entra nei dettagli, a dire: ma non sono stati invece i suoi avvocati a consigliarla? Ho sentito anche questa. Bertolaso ha paura. Sciocchezze, devo affrontare due processi, ma ho già avuto 5 archiviazioni. Il procedimento più importante è in fase conclusiva, non ho nulla da temere. Poi comunque parla di politica e dice: io comunque in squadra non ci sto. Insomma, Bertolaso che dunque si fa da parte per la vicenda della nipote. L'altro articolo che mi ha molto colpito riguarda il Movimento 5 Stelle e La Stampa. È il titolo di prima pagina perché La Stampa, con Jacopo Iacoboni, racconta, pagina 9, di essere venuta in possesso di un decalogo. Decalogo definito brutale ed eloquente, che qualsiasi candidato del Movimento 5 Stelle a Roma dovrà firmare per candidarsi alle comunali. Un decalogo che ha per esempio una sanzione: il sindaco, l'assessore o il consigliere assumono l'incarico etico di dimettersi qualora sia ritenuto inadempiente al presente codice con decisione assunta da Grillo, Casaleggio o dagli iscritti del Movimento 5 Stelle mediante consultazione online. In sostanza, scrive La Stampa, Casaleggio potrà dimissionare in ogni momento il sindaco di Roma. E ancora, Accordo punto numero 7. Le proposte di nomina dei collaboratori dovranno preventivamente essere approvate dallo staff coordinato dai garanti del Movimento 5 Stelle. E ancora, lo strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni dei cittadini è il sito www.beppegrillo.it, liste civiche Roma. In pratica tutto il traffico social o non deve essere convogliato sul sito proprietario. E poi soprattutto la penale, 150.000 euro di multa a chi dissente. Per chi disobbedisce è la pena che Casaleggio prevede per punire chi dissentirà dopo le imminenti elezioni in Campidoglio. Insomma, tutto nero su bianco con questo documento fotografato e messo in pagina 9 dalla Stampa, l'accordo capestro per chi del Movimento 5 Stelle vuole candidarsi. Vabbè, oh, primarie ovunque. Renzi vorrebbe le primarie anche per la Commissione europea. Per scegliere il presidente della Commissione europea ha proposto: ci vogliono le primarie contro la tecnocrazia imperante che non sa dove stia la relazione con la gente. Sapete che ogni giorno deve dire la sua cosa contro l'Europa. Questa è l'ultima. Ci vorrebbero le primarie per il presidente della Commissione europea, così vuole Renzi. Io le proporrei anche per il campionato, le primarie. Chi vincerà il campionato? Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi sembra che le primarie del campionato le giochiamo nella prossima giornata. Sì, sì, esatto. Lo scontro tra quegli altri, Juve-Napoli, quelli che vincono. Invece siamo quelli che pareggiano. Va bene, senti, abbiamo cercato, caro Alessandro, buona giornata, abbiamo cercato vanamente i tuoi due urini. Ma niente. Niente, no, perché oggi sul Sole 24 Ore, come hai annunciato, abbiamo questa mappa del risparmio. Dove si è mosso il risparmio, i nostri risparmi, dove li abbiamo messi, che cosa è successo? Ci sono stati gli anni duri della crisi, adesso, come sappiamo, c'è l'incertezza, c'è una sorta di preoccupazione diffusa, perché ci sono anche queste nuove regole europee, il bail-in, le questioni legate alla fallimento delle quattro banche. Insomma, allora noi siamo andati a cercare anche i tuoi due urini e non li abbiamo trovati. Come mai? Non lo so. Dove hai messo i due urini? Secondo noi finiscono nella parte dei conti correnti, che sono abbastanza sopra la media, diciamo così, facendo una media nazionale, li hai tenuti lì, non in altri strumenti. Ma se vuoi tutto il quadro, insomma, di cosa hanno fatto altri, regione per regione, guarda pagina 3 oggi del Sole 24 Ore, il lavoro svolto da Guido Plutino. Naturalmente ci sono anche delle tendenze storiche 2007-2014, ma insomma tutto il dettaglio di questa inchiesta nelle nostre pagine 2-3. Oh, e poi ti vorrei dire, ricordati che devi morire. Ma no, no, basta con questa cosa del malaugurio proprio di prima mattina. No. Non è arrivata la lettera dell'avvocato? No, non ancora. Non ancora, va bene, arriverà oggi. No, ricordati che è entrata in vigore la depenalizzazione sabato scorso. Ecco. Ah, scusa, mi sono dimenticato di dirti, sul risparmio, interessante anche quanto è uscito su Plus sabato scorso, perché non è che se il sabato non ci sentiamo tu mi trascuri Plus, il settimanale del risparmio. No, ho voluto dirtelo perché so che magari tu ti distrai, ti dedichi ad altre cose nel fine settimana. Oh, allora sabato, oltre ad essere uscito Plus con il Sole 24 Ore, è anche entrata in vigore la depenalizzazione. Che succederà? Ma vediamo, siamo andati a vedere in un po' di tribunali, l'arretrato del penale è pesante, non come quello del civile, ma insomma non ha nulla da invidiare. E allora quale potrà essere l'impatto? In realtà, secondo le nostre stime, è abbastanza contenuto. Vediamo, ne parleremo ancora diffusamente, questo è un cambiamento parecchio importante. Poi, se affitti casa a canone concordato, tu proprietario, voglio dire, tu sei proprietario di case, no. Non affitti case. Ma i tuoi due urini da dove vengono precisamente? Vabbè, infatti, vabbè. Ti sei mai chiesto perché sono due? No, va bene, no. Ci faremo un'altra inchiesta solo sui due urini, allora, sui tuoi due urini. Se affitti case, sappi che adesso c'è una serie di sconti possibili dal fisco per il canone concordato, cioè il canone particolarmente basso fissato in alcuni comuni ma estendibile ad altri. Non so se si dice estendibile, forse ho coniato un neologismo così lunedì mattina. Oh, naturalmente come ogni lunedì l'esperto risponde, questa volta ci occupiamo dell'attenuità del fatto, quindi ancora diritto penale, e poi anche di coupon anche digitali per risparmiare sulla spesa. Ti volevo dire, se volessi passare, visto che guadagni 2 eurini, sì, alla forfè, sai che c'è il regime forfettario, sì, per chi fattura poco, allora trovi tutte le indicazioni su norme e tributi oggi con il Sole 24 Ore, che sempre tu devi leggere religiosamente. Oh, molto bene, così mi fa piacere quando sei attento e preparato. E poi, naturalmente, questo è il mese febbraio, è il mese non più crudele, delle ciliegie, no? Poeta. Ma no, è il mese della certificazione unica. Ecco. Santa pazienza. Allora, il mese della certificazione unica, i sostituti di imposta sono chiamati a preparare questa certificazione per i loro sostituiti, cioè quelli come me e come te, per capirci. Ebbene, quest'anno è ancora più gonfia, più densa del previsto. Te lo raccontiamo anche questo nelle pagine di norme e tributi. Quindi hai tante cose da leggere, ma soprattutto l'Italia si chiede dove hai messo i tuoi 2 euro. Allora è la settimana del voto sulle unioni civili, su tutto c'è la giravolta del Movimento 5 Stelle che lascia libertà di coscienza dopo che avevano detto voteremo sì, questo crea anche un po' di scompiglio, di dibattito nella base grillina. È interessante soprattutto l'articolo di Goffredo De Marchis a pagina 6 di Repubblica e spiega cosa c'è dietro a tutto questo. C'è il fatto che il politologo Dalimonte, il politologo uno forse più autorevole che c'è in Italia, il professor Roberto Dalimonte, ha fatto notare di recente che nel Movimento 5 Stelle, facendo uno studio a proposito dell'elettorato, ci sono anche molti elettori di destra, orientati a destra. Questa cosa ha convinto Luigi Di Maio, che ha chiesto un colloquio al professor Dalimonte, si è fatto evidentemente spiegare tutto questo, ed ecco allora da qui nasce l'idea di cambiare un po' la rotta e lasciare libertà di coscienza. Tra l'altro su questo tema il giornale mette in prima pagina questa notizia che riguarda Sanremo. Parte Sanremo, dai amici, tutti davanti incollati allo schermo, lo so che lo farete, io non lo vedo praticamente mai qualche minuto, ma non per snobismo, voglio vederlo, ma c'è sempre un motivo per cui non riesco a guardarlo. Comunque, a Sanremo la prima polemica è già servita, ancor prima dell'inizio del festival. Spot pro coppie gay, questo secondo il giornale, perché domani, racconta Laura Rio, sarà ospite Elton John e, come ha spoilerato Massimo Giletti all'Arena, o meglio anticipato, andrà col marito e chissà, forse anche col figlio, ci sono immagini del figlio, sapete che hanno fatto un figlio con la maternità surrogata, eccetera. Insomma, il giornale dice, eccola qui la polemica, il festival entra proprio nella settimana di votazione alla Cirinnà con le polemiche, con la presenza di Elton John. Ve le lascio tutte queste polemiche, le lascio a voi, a Gasparri, a voi, a tutti voi, per carità. Vi faccio notare però, per quel che riguarda la cronaca, che Alfano dice ora l'esercito a Napoli. A Napoli, come racconta Repubblica, da qualche giorno è aumentato moltissimo il numero di uccisi per violenza e per camorra. E Alfano dice ci vuole l'esercito, la solita reazione istintiva, in realtà che non è una soluzione strutturale, ma il ministro dell'interno risponde così, pagina 18 di Repubblica. Vabbè, la pubblicità esonda e dunque noi dobbiamo stringerci, so, per la felicità di tutti. E allora dobbiamo correre alla carta costa, la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, no! I Rollins, so anche mia figlia, anche mio figlio ne sono schiavi, i Rollins, un articolo del Corriere mezza pagina per dire spade laser e doppioni si sono trovati in 1000 a Milano per i pupazzetti di Guerre Stellari. Ma chi se ne frega!